siamo tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con questa storia dei matrimoni, delle adozioni, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. I shall be sharing, but I didn't shoot no deputy. Oh, qualcuno ha ammazzato lo sceriffo qui, qualcuno ha preso il fucile, ha sparato, puff, e ha ammazzato uno sceriffo. Da lei ha quasi 84 anni, riesce ancora a comandare bene, no? Io faccio parte della maschia gioventù dei miei tempi. Il Vangelo secondo Gentilini dice: ordine, disciplina, rispetto delle leggi. Prima noi e dopo gli altri. Davvero sceriffo, insomma. Davvero sceriffo. Lo sceriffo d'Italia numero uno sono io. È finita invece, è finita. Lo dico anche con un po' di rammarico, perché speriamo che continui a parlare almeno Gentilini, no? Almeno quello. Allora darò immediatamente disposizione alla mia comandante affinché faccia pulizia etnica dei culattoni. I culattoni devono andare in altri capoluoghi di regione che sono disposti ad accoglierli. Qui a Treviso non c'è nessuna possibilità per culattoni o simili. A un certo punto Gentilini se l'era presa con le nutrie, te lo ricordi, Parenzo? Sì, le nutrie. Come no? Beh. Li chiamava i nemici della città di Treviso, le nutrie. Le nutrie sono quegli animali che erano stati importati per fare le pellicce. Queste nutrie si sono sparse in tutti i canali italiani. Stanno forando tutti gli argini. Le nutrie qui? Le nutrie. Sì, sono. Ma si vedono a occhio nudo? Anche qua le ho. Quindi io ho chiesto al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'Ambiente di autorizzare lo sterminio totale di questi animali. E chissà se il nuovo sindaco ordinerà questo sterminio delle nutrie. Caro Parenzo, siamo qui con la zanzara in questa giornata elettorale che ci consegna il disastro della Lega che perde Treviso, la vittoria clamorosa del centro-sinistra, un cappotto incredibile, ma è anche la giornata delle baggianate, se ne sentono veramente di tutti i colori. Per esempio, ti faccio sentire subito una cosa. La signora Salta Martini, la conosci? Come no, la deputata del PDL. Deputata del PDL, molto alemanniana. La signora Salta Martini dice: non è un voto contro Alemanno. Ma io adesso va bene tutto. No. Ma che vuol dire non è un voto contro Alemanno? Ma chi era il sindaco di non è un voto contro Alemanno? E vabbè. Ma non credo che sia un voto contro Alemanno, anzi tutt'altro, quello che io invece credo, no, io credo che sia purtroppo, e la cosa mi preoccupa ugualmente, credo che sia una disaffezione generale. Una disaffezione generale, giustamente la signora Berlinguer chiedeva alla Salta Martini, deputata del PDL, molto molto alemanniana, scusi, ma un voto contro chi allora? Chi ha perso contro Marino? Che ha preso oltre il 60%? No, ma non è un voto contro Alemanno. No, non è un voto contro Alemanno. No, dici di no, anche tu. Cioè, allora, si chiamano ballottaggi. La sfida è uno a uno, no? Cioè, da una parte c'è il signor Marino, dall'altra parte il signor Alemanno. Sì, sì. E questa signora Salta Martini. Salta Martini, cioè, che non è Salta Martini, cioè Salta i Martini. Ma è tutto in questo attaccato. Caso mi sa che. È mi sa, tutto attaccato. Salta tutto attaccato, però mi sa che si è bevuta molti Martini, Si è bevuto molti Martini prima di dire, ma non è un voto contro Alemanno, è un ballottaggio, cazzo, come lo chiede? Cioè, cos'è? Non si capisce. E sai che ci vuole pane bianco per fare No, non ci vuole pane bianco. Perché io dico, questa stupidaggine potevi chiedere anche a chiunque, i soliti camionisti che telefonano. Però sono sicuro che se lo chiedi a pane bianco dice la stessa cosa che dico in questo momento. Però è anche la giornata delle frasi fatte, delle frasi, quelle roboanti, no? Quelle roboanti, daremo di nuovo una dignità a Roma. Per esempio, Roma sarà la guida morale del paese. No, questo non si può dire. La guida morale questo del paese. Questo non si può dire. In molte città d'Italia il centro-sinistra ha raggiunto risultati straordinari. Però questa, lasciatemelo dire, è la capitale. Ed è da qui che dobbiamo riacquisire un ruolo di guida, guida morale per il nostro paese. I shot the sheriff. Qualcuno ha ucciso Gentilini. Chi ha ucciso Gentilini? La Zanzara 800 24 00 24. Beh, caro Parenzo, sentiamo Benigni, Benigni su Letta e Renzi. Senti, anzi no, aspetta. Mentana, Berlusconi. Senti Mentana su Berlusconi. Dovessi consigliare, adesso la domanda si fa difficile, a Berlusconi, uno dei volti che ancora ci sono in giro, come non Delfino perché porta male sempre a tutti e dovrebbe essere fucilato dal WWF Berlusconi per tanti delfini ha ucciso in questi vent'anni. Battutona di Mentana sui delfini. Ma tu lo sai che l'esercito, tu dici sempre divertente quando si tratta di Mentana, ovviamente. Divertente come sempre, ho detto. Sì, anche. Sì, appunto, hai aggiunto anche come sempre nel tuo solito leccaculismo. No, totale, leccaculismo totale. Però devo segnalarti che l'esercito di Silvio, capitanato dal signor Diego Volpe Pasini, comunica alla Zanzara. Sì, praticamente sì, è il generale, ma non lo vuole dire, ma è il generale. Bianco Fioriano, da quel no, ma aspetta, alunno. Aspetta, comunica Diego Volpe Pasini con i risultati di oggi, da subito, ti giuro, da subito l'esercito di Silvio chiede a Silvio di cancellare tutti i dirigenti a partire da Alfano, oppure se ne deve uscire lui. Basta, manifesteremo sotto casa di tutti. Ma, scusate, ma non era la guardia di Silvio? Adesso è diventata quella che fa il colpo di stato a Silvio. If I am guilty, I will pay. È con noi uno degli epurati della Lega, Santino Bozza, consigliere regionale in Veneto. Signor Bozza, buonasera, come sta? Pronto, buonasera, mi sente? Sì, sì, forte e chiaro, Bozza. Guarda, io non sono un epurato della Lega. E come no, epurato da chi? Io appartengo sempre alla Lega 1.0. Ah, alla prima. E volta su un nastro la Lega 2.0. A cos'è che ha fatto? Mai il numero è stato così preciso, così... Capito? No, non ho capito, scusi, signor Bozza. Lei è stato però cacciato da Maroni, dalla Lega di Maroni. Ma a me di Maroni non me ne frega niente. Non gliene frega niente di Maroni. No, io appartengo sempre alla Lega di Borsi 1.0. Cioè c'è solo quella di Lega secondo lei? Sì, quella degli ideali del federalismo. Sì. Ha capito, quella della nostra Lega. E quella di adesso che cos'è invece? Questa è solo la Lega di Caregari e basta. Di Caregari. Caregari, che vuol dire Caregari? Poltrone. Di gente che cerca solo le poltrone. Hanno distrutto una Lega che poteva dar fastidio ancora al sistema centrale. Sì. E questo probabilmente con i poteri forti, sì. Se non la Lega, sappiamo, è stato un pacco preparato da dentro la Lega. Scusi un attimo, ma... Io noto, scusi, però potrebbe per cortesia parlare in italiano, visto che siamo alla radio di Confindustria? Ma io ho una voce, Badani, purtroppo, io sto parlando in italiano, ma una voce purtroppo che mi va via. No, con certo, certo. Di voce, dimmi. Scusi, Bozza, ma c'è un disastro totale qui, la colpa di chi è di questo disastro? Treviso, ha visto che è successo a Treviso? Treviso, purtroppo, Gentilini appartiene al passato, non ha fatto una politica... Che riguarda i tempi nostri e i problemi della gente di oggi, che non ha neanche più soldi per mangiare e prendersi un bicchiere d'acqua. Ha fatto una politica, ricordando ancora, guarda, 15-18 del Piave, riammettilo, no, ha sbagliato in pieno. Doveva stare a casa da subito, farsi delle belle passeggiate, che adesso le farà probabilmente. Ah, belle passeggiate doveva fare. Un paio di partite a briscola al pomeriggio e ha detto presto a questo riconsiglio a Gentilini. Scusi un attimo, ma la colpa comunque di chi è di questo disastro? Anche di Tosi o no? Di chi? Di Tosi. Beh, questo è il primo in assoluto Tosi. Sì? È il primo in assoluto Tosi, abbiamo visto anche cosa ha fatto a casa sua. Probabilmente non credono più neanche di Veronesi. Ecco, ma come lo... Sì. Avevamo già visto alle politiche che aveva già preso la bastonata. Ma come lo considera lei Tosi, scusi? Comandi? Come lo considera Tosi? Tosi, un pallone gonfiato dai media. Un pallone gonfiato dai media? Un pallone gonfiato da voi media, purtroppo. Colpa nostra, dice lei? Dei media, sì, sì. Ma gonfiato, fascista? Non è nessuno. Ha delle mani un piccolo... Come si dice? Un piccolo che? Una cartolina con scritto sul perito... Ha capito, non è uno... Una cartolina con scritto su perito? Ha un titolo di studio. Ah, un titolo di studio, lei dice. Non è un eccesso, non è un extra. Ha capito, è uno che... Sì. Ne ha approfittato del papalia quella volta, sa. Ma è fascista o no? Comandi? È fascista o no? Ma penso di sì, l'abbiamo visto, abbiamo constatato a Pontita. Sì, sì. Ha dato la carica di 101 per non essere contestato. E già lì abbiamo capito che questo è un personaggio che non guarda in faccia a nessuno, ma adesso chiederemo la sua espulsione immediata. Ma chi la chiede questa espulsione? Chi la chiede l'espulsione? C'è tre quarti di Lega che gliela chiede. Ma scusi, ma lei è fuori dalla Lega? Regionali, provinciali, comunali, militanti. Ma lei è fuori dalla Lega, Bozza? No, io sono sempre dentro la Lega 1.0, ripeto. Ma ho capito, ma non esiste più, ma a meno che Bossi non se la voglia riprendere. No, esiste, ci mancherebbe altro, riprende, sì, siamo in contatto con Bossi tutti. Ma che fa Bossi? A Vicenza, a Padova, a Trento, siamo in contatto tutti con Bossi. Ma che fa Bossi? Perché a noi di Bossi ci interessa il cervello che ha. Cervello, il grande politico che è. Sì. Perché volevo dire che leader si nasce e non si diventa. Maroni ci ha cercato di imitarlo, ma niente, è piccolo, proprio un anetto. Un anetto, un piccolo nano, sì, sì. Piccolo nano. La televisione. Maroni, piccolo. No, ma scusi. Sì. Vale come due di coppe. Vale come due di coppe. In televisione sì. non vale un cazzo. No, lo si vede lì anche gli interventi che fa, robe da volta stomaco. Sì, da volta stomaco. Addirittura, sì, sì, sì. Ma scusi un attimo, ma Bossi alla fine che fa? Si cerca di riprendersi la Lega? Che fa? Ma noi contiamo su Bossi adesso. Cioè per riprendervi la Lega? Sì, adesso mi riprendo la Lega. Vediamo cosa succede domenica, lunedì ci riprendiamo la Lega. È successo quello che lui aveva previsto e anche noi avevamo previsto. Sì, sì. Sì. E questo l'abbiamo previsto ed è successo. Perché non abbiamo votato Lega neppure noi. Come si fa a votare una Lega che ti manda a Roma quattro ignoranti? Quattro di numero e quattro ignoranti. Lei, non i deputati. Possiamo pensare di andare a governare con persone incompetenti e incapaci. E lì è stato il disastro. Sì. Vabbè, traffico, torniamo subito. Santino Bozza, arrabbiatissimo, consigliere regionale in Veneto della Lega, espulso dalla Lega 2.0, ma lui si sente di appartenere alla Lega 1.0, cioè quella di Bossi, che tornerà, dice lui, tornerà. La Zanzara. Notizia dal centrodestra, caro Parenzo, direi con un tempismo eccezionale. Angelino Alfano, il segretario del PDL, nomina Isabella Rauti consigliere per le politiche contro il femminicidio. E chi è Isabella Rauti? È la moglie di Gianni Alemanno. A parte che bisogna vedere cosa diavolo significa consigliere per le politiche contro il femminicidio. Le solite cariche inutili. Speriamo. Ma non era anche consigliere regionale, assessore regionale del Lazio, tempo fa? Sì, nella certo. precedente giunta. Assolutamente sì. Non può stare ferma un turno, no? Ma non so, non è questione di stare fermo un turno, è questione che speriamo che questo incarico soprattutto non sia retribuito per le consigliere sulle politiche per il contro il femminicidio. Mi fa girare. Ma consigliere di chi? Consigliere di Alfano stesso, del Ministero degli Interni. Questa la pagherà con i soldi suoi, uno può prendersi anche Cruciani se Alfano si vuole, ma se lo pagherà con i soldi suoi. Ma non credo. E perché no? La cruda verità. Gianfranco Rotondi invece, sempre per il PDL, dice noi semplicemente senza Berlusconi non esistiamo in natura. Grande casino nella Lega. Santino Bozza, consigliere regionale in Veneto. Sì, eccoci qui. Bozza, animo. Ma ci vuole, ma siamo casatissimi. Ma siamo gasatissimi, siamo super gasati. Ma chi è gasato? Avete perso, chi è gasato? Noi tutti siamo a migliaia, pronti a dare calci in culo a Tosi e Maroni. Ah, calci in culo, dice lei. Fuori dai, come si dice, fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. Beh, mi sembra. Sì, questa volta, ma lei mi pare. Questa volta sì. Ma mi sembra un tantinello livoroso. Ma no, ma che livoroso? È la, voglio dire, è la, la linea del, dei dissidenti della Lega che sono stati cacciati da, da Tosi. Da ma Magone. Guarda che i dissidenti sono più di più che noi presenti, sai? Sì. I dissidenti siamo molti. Cioè, di in più. Veneto tutti vogliono cacciare Tosi, per esempio? Ma ci mancherebbe altro. Adesso con la sconfitta di oggi penso che arriveremo al 70%. Ah, in Veneto, eh? E che fate? Fate l'assalto al comune di Verona, che fate? L'assalto, ma l'ha già persa Verona, ha perso in tutti i comuni di Verona. No, ma che fate? L'assalto? Fate l'assalto al comune di Verona, che fate? Ma che assalto? Io spero che si fermi la Garda, lui anche, l'ho già detto un'altra volta, adesso deve fare altro che andare in centro da Garda, lui e Maroni. Nel punto più fondo. Sì, addirittura. E immergersi magari. Ah, buttarsi giù proprio? Sì. Beh, scusi, veramente se lei... Hanno distrutto la Lega, una Lega che aveva le idee strane, sì. Sai? Ma se devono... E non, sì. E non fasciste come le sue. Hai capito? Cioè, e neanche razziste. Se crepassero, se lei sarebbe contento? Mandi? Se crepassero, sarebbe contento? No, non è questione, la morte non si lavora nessuno, però spariscano, basta. Via. Vadano in vacanza in eterno, però. In eterno, una la vacanza. La politica non fa per loro. Scusi un attimo, altrimenti avremmo avuto un risvolto diverso da... Sì, però scusi Bozza, c'è una persona particolarmente contenta della sconfitta di Gentilini a Treviso, è il ministro Chienghe, lei lo conosce? Ma non è questione del ministro Chienghe, non è quello il problema. No, però farebbe oggi... Farebbe bene andare a curare i suoi ammalati in Africa, visto che si è laureata, ha preso una laurea. Sì. Farebbe bene andare a aiutare i suoi, come andiamo noi, i nostri medici sulla frontiera. Visto che lei si è laureata e ha preso in oculistica, vada a curare i suoi bambini, la sua gente che ne ha più bisogno, che lei stia qui a fare la ministra. Vada lì, vada lì in Congo, le dice. Vada in Congo ad aiutare la sua gente. Sì. Visto che qui è venuta per studiare, imparare, visto che ne ha avuto le possibilità. Sì. Anche l'intelligenza, perché penso che sia una donna oltretutto intelligente, se sia laureata. Sì, però. Ma vada adesso ad aiutare i suoi. Vada a curare la sua gente, i suoi bambini, che ne hanno molto bisogno. Io conosco un sacco di medici, miei amici, sì, che vanno in Africa, vanno in Kenya, vanno in Burundi, vanno un po' dappertutto. E perché non può fare ministro, secondo lei? Ma scusa un attimo, ma cosa c'è? Io faccio ministro in Italia quando ho la possibilità di tornare in Africa a curare la sua gente. E questo è la nostra forza anche qui da noi. Noi stiamo lavorando per la nostra gente, cercando di sistemare. Sì. Capito, il benessere, portarlo un po'. Cioè lei dice ha avuto la fortuna di venire qua a studiare, se ne vada adesso a dare ma forti suoi, no? Lei dice con Bossi non sarebbe accaduto, con Bossi in sella. Ma non è questione di Bossi o non Bossi, non è questione di Bossi o non Bossi, guardi, ho detto prima che Bossi non ci ha mai insegnato a fare razzisti, noi no. Siamo nessuno, assolutamente. Sì. E chi viene qua a lavorare? Sì. Beh, ma lei lavora, la signora... Che non è vero, ma la signora Chienghe lavora in Italia, fa il medico. Ho sentito che è laureata. Sì, ha anche il passaporto italiano. Andare, che potrebbe andare ad aiutare, a medicare, a curare i suoi, i suoi bambini che ci sono tanti, c'è tanto bisogno lì. Ah. Allora vada. I bambini neri, no? I bambini neri, sì. E certo. Possono farla anche lì, magari, no, deputata o capo di qualche governo. Cioè, ministro in Italia no. È con più grado e con più onore anche. Capito, Parenzo? Sì, no, ma io voglio dire al signor Dozza... Dozza è meglio. Il signor Dozza dovrebbe... Bozza, che fai? Storpi nomi pure tu. Bozza. Si distingue, in queste parole, voglio dire, si distingue per l'eleganza. Ma lo sai che una volta Tosi ha detto una cosa grave su Bozza, cioè ha lasciato intendere che Bozza è un ex deputata della Lega, Goisis, ma poi la causa è ancora in corso, lei l'ha denunciato davvero Tosi? Per quella storia della... Ci mancherebbe altro. Ma perché, che ha fatto alla fine? Ma scusate, l'ha detto a voi, credo, sulla 24 ore. Ah, anche sì, ha detto. È quello sì. Che stiamo facendo, per lui l'ha buttata sempre, ha cercato sempre di coprire a modo suo. Lui ha detto che lei aveva una relazione, ha una relazione con l'onorevole Goisis. No, lui ha detto, beh, anche questo è comunque su un affare privato di tutti gli italiani del mondo, di tutti gli italiani in particolar modo. No, lui ha detto una frase che a me non è piaciuta. Sì. Ha cercato di fomentare un po' quello che era il nostro disapprovo contro di loro, il modo di fare politica, sì, dicendo che quello che sto facendo io personalmente, sì, lo faccio perché non ho candidato, non ha candidato la mia donna. Ma è la sua donna o no? A chi la vuoi? La vuoi, si è sposata e ha due figli, ha mica problemi. Vabbè, ma che ne sai? Ma che c'entra? Tutto è possibile. Sono sposato a 43 anni, cosa c'entra? Tutto è possibile nella vita. Questo, ma anche altri giornali hanno parlato, perché lui ha dato questa notizia. E quello che stiamo facendo nel territorio del Padovano, perché non hanno candidato lei. Sì, a parte che facciamo un affare. Se candidava 4-5 persone nostre, sì, avremmo avuto anche più voti probabilmente, perché lui ha lasciato proprio, sì, ha messo da parte la gente che... Ma perché ha parlato della vostra... Perché ha parlato così di questa presunta relazione? Ma perché per dire quello che stiamo facendo, avevamo uno scopo annunciato, quello della Lega. Invece il nostro scopo è quello della Lega, noi siamo con i cittadini, vabbè, a contatto sempre con i cittadini. Quello che comunque non come finisce qui? Anni. Come finisce qui, Bozza? Calci in culo? Calci in culo, ma di quelli sai, di quelli con la rincorsa, no? Quelli all'americana che hanno la punta lunga. Ah, quelli con la punta lunga. Quelli all'americana, questi vuoi tirare. Boom! Va bene. Ciao, a presto. Pubblicità 800240024, giornale radio. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato. Ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. E vede, noi siamo molto viziati come popolo della libertà, noi tutti. Perché i voti per noi li prende sempre uno solo, che si chiama Silvio Berlusconi, e quindi non diamo quel massimo dell'impegno, il massimo dell'applicazione. Forse sbagliamo in questo, perché abbiamo proprio questo vizio. Siamo troppo viziati da Berlusconi. Ma senti cosa dice invece una deputata di Grillo che si chiama Giulia Sarti. Giulia Sarti era quella delle email intercettate, no? Sì. Anche con Travaglio. Non considero Alfano una persona normale. Senti. Io posso dirvi anche che per dei cittadini appunto normali come noi, perché mi dispiace, ma io le persone come Angelino Alfano, come tanti altri, non li considero persone normali, e non mi vergogno, perché il mio rispetto per le istituzioni mi impone di non considerare normali soggetti come questi che ci hanno rovinato. No, di grazia, come consideri allora Alfano? Un subumano, una persona non degna nemmeno di essere guardata, magari di essere calpestata? Adesso, per carità, si può dire di tutto, anche a me non sta particolarmente simpatico, non è il massimo dell'acume politico, secondo la modesta opinione del sottoscritto, però insomma addirittura non è una persona normale, mi sembra esagerato, cara Sarti. Intanto i 5 Stelle hanno conquistato due importanti comuni, Pomezzi ed Assemini. Posso ricordarle sommessamente, sì, che anche questa signora qua che ha testé parlato, lei, sì, ha contribuito con il suo voto uno vale uno a mandarla in Parlamento. Un'antichia, si è pentito o no? Un'antichia, io da oggi le do del lei, perché mi ha rotto i coglioni. Un'antichia, si è pentito, lei è un'antichia. Non faccio nessun tipo di bilancio a 3 mesi dalle elezioni, mi dispiace. Intanto trionfa Marino a Roma, però non è un voto contro Alemanno. No, no, non è un voto contro Alemanno, disse la Salta Martini, non è un voto contro Alemanno. Salta Martini. Appunto, salta il Martini, perché altrimenti dici, e appunto, delle cose. Se te prendi il Martini poi dici, sì, delle cose inenarrabili. Ecco, salta il Martini, appunto. Cioè. Ma non credo che sia un voto contro Alemanno, anzi, tutt'altro. No, non è un voto contro Alemanno, no. È semplicemente un ballottaggio in cui c'è una sfida tra due persone, vince una, no, ma non è un voto contro Alemanno. Ma devi saltare i Martini. Cioè, esattamente come dice il cognome, salta i Martini. Altrimenti... Fai questa brutta fine, TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Marino vince con grande distacco la sfida con Alemanno. Roma torna al centro-sinistra. Il neosindaco: rilanciamo con orgoglio i nostri valori. Il centro-sinistra vince tutte le sfide nei capoluoghi e strappa al centro-destra anche Brescia, Imperia, Iglesias e Viterbo. Affluenza in forte calo. Dopo 20 anni finisce a Treviso l'era della Lega, il democratico Manildo sconfigge Gentilini, che era tornato in pista per il terzo mandato. PD una vittoria sopra ogni aspettativa, il PDL è inutile negare la sconfitta, bisogna capirne le ragioni, la Lega ha una batosta che può far bene. Peggiora la recessione, meno 2,4% il PIL, produzione industriale a picco, male l'export, quindi Europa mio per il rigore blocca la crescita. Si dà fuoco nella stanza del sindaco, poi si getta dal balcone a Ercolano, il dramma di un fioraio che si toglie la vita per alcune mancate autorizzazioni. A Roma funerali solenni per il capitano La Rosa, il bersagliere ucciso sabato in Afghanistan, 53esima vittima italiana dall'inizio della missione. Lo vedi, ecco Marino. Secondo Marino vince la solidarietà. Bah, vince la solidarietà. Ha vinto lui, punto. E poi io me ne frego di questa storia della astensione, ma chi se ne frega? In altri paesi, alle comunali, alle elezioni per i sindaci, va a votare il 40%, nessuno protesta, tutti preoccupati, no? Cioè, tutti preoccupati dal fatto che la gente non è andata a votare, ma chi se ne frega? Un sindaco è legittimato lo stesso. Lasciatemelo dire. Un valore culturale del centro-sinistra che questa sera in questa città vince. E il valore è la solidarietà. Ma non è che la gente è andata a votare Marino per far vincere la solidarietà. Adesso. Ma cosa vuol dire? Ma sono i soliti paroloni che si dicono dopo le elezioni. Intanto anche Letta ha detto una delle sue. Il Presidente del Consiglio ha detto che le elezioni rafforzano le larghe intese. Bah! Sì, forse quelle le intese all'interno del Partito Democratico, forse. Mimmo da Bari, buonasera Mimmo, buonasera. Ciao, buonasera a tutti quanti voi. Nulla, mi ponevo alcuni quesiti, no? Cioè mi cosa? Chiedevo, tutta la coalizione ha ottenuto un 45%, se il PD andava da solo cosa prendeva, il 20%? E poi mi sono posto un altro quesito, visto che loro citano molto il quorum, non vedo il perché. Ma chi, quando si tratta... chi cita il quorum? Allora, qui non c'è quorum, qua innanzitutto. Esatto, qui non c'è quorum, però nei referendum solitamente c'è il quorum. E allora? E allora nulla, visto che il quorum non ha più senso di rimanere, perché non lo si toglie, lo si elimina anche dai referendum? Ma chi se ne frega adesso del quorum e del referendum, Mimmo? Stiamo parlando di altre cose, su. Attualmente appunto stiamo parlando dei ballottati, dei sinistrati, degli addestrati, così chiamati, no? Parenzo, ma questo qua sta ragionando, sta ragionando oppure... la palla e adesso ci sono passati la palla. Ma sono sempre loro lì che stanno. E ma chi? Ma di che sta parlando, Mimmo? Ma parliamo a Roma, parliamo ma di ci Roma, faccia capire, capitale. Lei è sconclusionato. Assolutamente, ti dico che a Roma assolutamente si sono passati sì. La palla. A Roma si sono passati ma la palla. Ma chi si è passato la palla? Ma Marino e Alemanno si sono passati la palla. Vabbè, ma questo ha completamente perso la testa. Dire, ha perso la testa, palla. Vabbè. Ma assolutamente no, assolutamente no. Sì. Poi lo vedremo nelle scelte decisionali, lo vedremo nelle grandi scelte. Cioè non cambierà nulla, dice lei? Esatto, non cambierà nulla. Esatto. Finalmente ha detto una cosa sensata dopo due minuti di intervento. Grazie, Giuseppe dalla provincia di Belluno, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, lì ha lanciato un messaggio. All'inizio della trasmissione. No, io non ho lanciato nessun messaggio. Sì, ha detto chi è che ha colpato lo sceriffo, chi è che ha sparato lo sceriffo. Sì, sì. Non era un messaggio, comunque. Vabbè, comunque era adesso lasciamo perdere Salto Martini. Volevo dirle soltanto una cosa. Giuseppe, sveglia. Ah, sicuro che non sono state le nutrie. Non lo so, ma lei di dov'è? Sono qua in Pieve di Cadore. In Pieve di Cadore, non lo so, le nutrie mi pare difficile che possano essere state, però potrebbero avere contribuito. Beh, visto che voleva ucciderle, voleva accopparle. Vabbè, Giuseppe, arrivederci. Giovanni d'Avellino, buonasera. Giovanni, sveglia, Giovanni. Eccomi presente. Bada. Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani. Allora? Volevo allinearmi e quantomeno associare e condividere il pensiero del leghista Bozza. Cioè? E nel senso che i due ideali assolutamente rappresentativi e degni di diciamo di successo, quello di rappresentare il popolo italiano come ministro, sì, e quindi di fare proselitismo e altruismo per tutto il popolo italiano, e soffocate, secondo me assolutamente inferiore rispetto a quella effettivamente di dare una mano ai bambini poveri o quantomeno a quelli che hanno più bisogno. Non ho capito un cazzo, scusi Giovanni, scusi, glielo dico in maniera così brusca, non ho capito nulla, di cosa sta parlando Giovanni? Il pensiero glielo riferisco di nuovo. È no, no, non è un pensiero questo, è una cosa confusa. Cioè... Non credo, è soltanto la prevalenza dell'ideale altruistico di aiutare la propria popolazione dopo aver assunto un'istruzione in Italia, piuttosto che primeggiare egoisticamente con la rappresentazione affidata dal Presidente del Consiglio. Vabbè, non ho capito niente. La ringrazio, grazie, grazie Giovanni. Siamo come lei, siamo come lei. Iniziamo male questa sera con tre persone che non sono in grado di intendere e di volere. Annarella, buonasera. Eccone un'altra. Come andiamo? Non so, eccone un'altra. Chi ha detto? Parenzo, chi l'ha detto? A parei. Te gonfio, Gonfialo, gonfialo. Allora, ma stai? Ma sei contenta, Annarella? Ah, sono felice. Allora? E allora? Che è successo, Alemanno? Si è piazzata là. Dove sei presa? Al del culo. No! Nel sottocoda, diciamo. Ma... ma abbiamo vinto da tutte le parti, ma ancora non avete capito che Roma è rossa. È stata sempre rossa. Beh, è rossa. L'altra volta ci hanno gabbato. Beh. E lui è fatto da polverini. Ma l'altra volta c'avevate Rutelli, c'era. Quello è diventato un figlio della brollerina. Ho capito, l'altra volta con Rutelli però ha vinto Alemanno, Annare. Ma Rutelli aveva fatto i cavoli di cani. Scusa un attimo, ma non vai a festeggiare anche tu? Io vado, che c'ho il cane con la gatta, io mi fanno a farmi diventare matta. Scusa. Non ce vado là, no, io non esco il pomeriggio alla sera. Ma hai visto che ha vinto dappertutto? Tutto, dappertutto, pure dove stavano lì i registi, dove stavano tutti in centro-destra. A Berlusco, Pietralla. Come? Che hai detto, a Berlusco? Pietralla. Non vi abita l'Anderculo. Ma addirittura, no. Pure Berlusconi. Lui ha Sant'Anche, lui ha Sant'Anche, oggi stava lì, chiacchierava, e si ritinta la ta, e prende conti, e il 20%, a me pure del punto, non sta bene. Basta che ve ne vado davanti l'occhi mia. E vabbè, ma quelli stanno al governo con te però, stanno al governo col PD. No, no, lascia perdere, noi c'è un altro sentimento. C'è toccato a staccia per qui stronzi di grilli che non capiscono niente, non sanno manco come si fa col bicchiere. Tu dici che per colpa di Grillo alla fine... per cui becca morti. Ma che? Io voglio sapere chi l'ha messo, chi ha votato ai Grilli di mostrarsi di loro. La gente ha votato Grillo. È scemo, è scemo. Quelli sono scarpari, non so gente che capisce qualche cosa. Sono scarpari. Scusami un attimo, Annarella, ma tu che sei dei Castelli, laziale come me, tra l'altro, vogliamo sempre ripeterla questa cosa, bisogna sempre sottolineare. Allora, primavera lo scudetto. Hai visto, sì. Non è che sono fondata delle politiche, io sono fondata di tutto. Scusa un attimo, Annarella, ma la famosa canzone la sai? Lo vedi, ecco Marino, le sangrace dell'uomo, le fontane buttano vino, quanta abbondanza c'è. Appresso c'è l'argentano, corti storie stardano, sonnano viva sì, nanni, nanni, e guarda che sole che c'è, la la la la la la la la la la la la. Nanni, nanni. Annarella canta per noi Ambedi Ecco Marino in onore di Ignazio Marino. Beh, Ignazio Marino, io ci voglio bene, io con Ignazio Marino ci ho sempre parlato, mi conosce bene. Borsa, pure sul pullman dei cosi, come si chiama? Come si chiama? E che ne so? Aspetta, fammi mandare la borsa un attimo, fammi mandare la borsa. La Zanzara. Ci sarà una grande coalizione del centrodestra. Andranno a votare anche quelli che non hanno votato adesso, perché il pericolo comunista incombe sulla città di Treviso. Treviso non diventerà mai il satellite della faccia e mantello. Beh, bandiere rosse sventolano su Treviso questa sera. Bandiere rosse, secondo Gentilini. In realtà non succede nulla di tutto ciò. Però Gentilini, barricato nel suo ufficio, non vuole rispondere a nessuno. dice che bisogna sapere che l'orda barbara della sinistra non si ferma mai. Lega e PDL mi hanno buttato nel fango della sinistra. Gira su internet un'altra cosa di Gentilini, strepitosa, un'altra cosa, un mix sul sindaco sceriffo, un mix sulla tolleranza zero. Sentiamo. Tolleranza zero, zero, zero. Controlli mirati, culattoni. I culattoni devono andare in altri capoluoghi di regione che sono disposti ad accoglierli. Qui a Treviso non c'è nessuna possibilità per culattoni o simili. Tolleranza zero. Treviso zero, zero, zero, zero. Allora darò immediatamente disposizione alla mia comandante affinché faccia pulizia etnica dei culattoni. Culattoni. Annarella, sei contenta che ha perso Gentilini? Sei contenta che ha perso la Lega a Treviso o no? Vedi un po'. Senti, ma lo sai che quelli erano quegli onesti, hanno rubato più degli altri. Lo sai che in Campidoglio si festeggia al grido, secondo me sbagliato, di fuori i fascisti dal Campidoglio e chi non salta Alemanno è, come quelli che andarono 5 anni fa col braccio teso sotto il Campidoglio, uguale, eh. Ma io li fa vedere tanto bene tutte e due, ecco. C'è sta Alemanno e Marini, tutta la terza rete, perché io la prima, la faccia del figlio di Mussolini non la voglio vedere. Ma chi? Ah, il figlio di Mussolini? Vespa, sì, Vespa. Ma non è il figlio di Mussolini, dai. No, tagli la capoccia lì, tagli la Mussolini, vedi se sono uguale. Vabbè, comunque la tua interpretazione di Ambedi e Comarino è eccezionale. Rifacciamola un attimo così ti saluto, dai, su, Ambedi e Comarino. Vai, rifammela un po', rifammela. Non vedi, ecco Marino, la sua grazia è dell'uale, le fontane buttano vino, quanta abbondanza c'è. A presto, Vergentano, Pantito e Salvano, Sanna, ma diretti. Nanni, nanni, a Berlusto, io posso cantare tu no. La celariccia. Ciao cara, ciao. Che sembra il gioiello da vedotta da incantare. Vado nel giardino, solamente poi trovare. Sotto quel lago, mistero c'è sta. Che sono le donne della nostra povertà. Via! Ecco Marino, la sua grazia è dell'uale, le fontane buttano il vino, quanta abbondanza c'è. Ciao cara, ti abbraccio! Stai bene! Ciao! Salutami i fascisti con Berlusconi! Ciao! Che stanno rotti! Dorian, provincia di Treviso, chi è Dorian? Sentiamo pronto, un po'. Va. Dorian Gray. Chi è? Ora sono qua, mi senti? Sì. Mitico, siete due mitici. Che vuoi, Dorian, che vuoi? Volevo dirvi che siete maledetti in senso buono. Riuscite a trovare, a far venire fuori il bene e il male contemporaneamente alle persone. Vabbè, bravi, allora Dorian, esprimiti. Volevo dire, mi son veneto, sì. Ho un Sechin qua davanti. Mi serve Parenzo per la traduzione. Sì, però scusi, Parenzo. Siamo su una radio nazionale, non è radio vota Leon che magna Teronto. L'ho detto apposta. Vabbè, dai, vai. Parlo in italiano, però mi serve dirlo anche in dialetto. Che no, dillo in dialetto. No, seguem pol B. Parenzo, traduci. Cosa hai detto? No, seguem pol B. Non se ne può più. Basta, Moiga, Gentilini, vattun dove a coparte. Parenzo, traduci. Basta, Gentilini, mollala, finiscila. Va tu dove coparte? Cioè è un suicidio, ormai non sei un po' il più della Lega, basta! diventa, Treviso diventerà la nuova Pechino, secondo Gentilini. Ma non credo proprio. Esatto. Noi siamo stufi, basta, non ne possiamo più la caccia alle nutrie, togliere le panchine, non è quella, noi vogliamo altre cose. Voi vogliamo altre cose. Va bene, grazie. Vogliamo... Dorian, Franco da Salerno, buonasera. Buonasera. Buonasera, signor Franco. Buonasera. Dica. È la prima volta che si riesca a chiamare alla radio. Comunque, mi volevo ricollegare a quel signore che ha chiamato prima. Tenga presente che io non sono della Lega, sono di Salerno. E allora? Le do ragione a quel signore che ha chiamato prima per quanto riguarda quella deputata di colore. Cioè? Dico io, ma se questa signora è così brava, sì, che vuole difendere i suoi qua in Italia, ma proprio come ha detto lui, ma perché non se ne va a casa sua e va a difendere i suoi bambini e altre cose? Ma lei è un mare di problemi, possiamo pensare anche a lei. Ma lei è un cretino, su. Senta, Franco, lei è un cretino, vabbè, ma non c'è problema, uno poco cioè, male. Cioè, uno ogni tanto capita. dimostra, capita, è un cretino e vabbè, punto. Cioè, è certificato che lei è un cretino. È abbassato, va bene. Luca da Roma, buonasera Luca. Sì, buonasera a tutti. Dica. Buonasera. Niente, io volevo intervenire per dire semplicemente una cosa, al di là dello schieramento che poi ha dimostrato di vincere le elezioni. Bisognerebbe chiedersi perché il 60% dell'elettorato non va a votare, cioè se diffusamente si è raggiunto un risultato elettorale di questo tipo, al di là di quale sia nello specifico, bisogna chiedersi se non abbia vinto realmente uno schieramento del non voto, e questo è assolutamente fondamentale, che i politici scusi un attimo, mi lasci dire che questa qua è una banalità colossale, cioè ci sono miliardi di ragioni per cui non si va a votare, magari la prossima volta andrà a votare il 60%, la prossima volta ancora andrà a votare il 50%, eccetera. Vada a controllare i dati dell'affluenza in altri paesi sulle elezioni comunali, sulle elezioni locali, vada a controllarli, poi ne riparliamo. Il problema è che non c'erano candidati primo sbaglia sempre. Secondo, significa, esatto, che accetta, significa che accetta, anzi non, ho detto anche una stupidaggine, significa semplicemente che accetta il risultato che uscirà dal voto, punto, certo, e basta, certo. Non è che non è appassionato, magari non gli va di uscire, ma qual è il problema? Non il problema, non capisco, se vota il 47% qual è il problema, non capisco francamente. Ma è che c'è una disaffezione, già l'interesse delle persone, voglio dire, è pesante, no? Ma io non credo. Luca da Roma, buonasera. Luca, Sebastiano da Foggia. Buonasera, signor Cruciani, signor Parenzo. Signor Cruciani, io sto incazzato con voi, perché? Sì. Perché la Lega adesso si sta sfasciando, Bossi la vuole finire di rompere, e perché voi ci siete colpevoli? Perché lei è un bel cane da caccia, sì, e Parenzo è un bel mastino napoletano, non vi siete accorti che Maroni ha vinto col congresso, vabbè, il segretario, teniamoci Maroni, perché mo Bossi vuole scendere in campo? Ma lei che gliene frega se sta a Foggia, scusi Sebastiano? Sì, no, ma lei ha ragione. Ma che gliene frega se lei sta a Foggia, Sebastiano? La Lega è inesistente a Foggia, che gliene importa a lei della Lega? Vabbè, ma io sono italiano, io vi amo. Voi due siete due cagnolini, ma bravissimi. No, ma lei cagnolini che vuol dire? Lei è un cane da caccia, però stavolta non ha preso la lepre. Ma quale sarebbe la lepre? Non ho capito quale la lepre. Essere... Bossi, vorrei tornare in campo. Allora? E allora quello finisce di rovinare la Lega, perché si è già dimenticato quello che ha combinato il figlio, lui eccetera, ha chiesto scusa, e allora perché ha chiesto scusa? Allora si deve stare a casa sua. Sebastiano, io l'amo alla follia, lei lo sa, è perché li attiriamo tutti noi, perché? Caro Parenzo, li attiriamo tutti e noi, perché? Non lo so. Vabbè, torniamo in noi dopo queste telefonate surreali. E lo facciamo con un grande ritorno alla Zanzara, Alessandra Moretti, Partito Democratico, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Come ma sta? Scusami. Che c'è, Parenzo? No, dimmi. Voglio subito intanto abbracciare e salutare la compagna Moretti, ma poi dirle, lei che è stata portavoce di Bersani, ora che Bersani non c'è, la voce di chi porta? No, la voce di nessuno. Ma finalmente porto la mia. Ah, ecco, Bersani, sonante e squillante. Bersani, niente. Che bella voce. E intanto esodato, vorrei ricordarvi Bersani, che Bersani c'è ancora, e sta benissimo. Per cui oggi anche twittato oggi. Beh, vabbè, che ma scusi, ma il PD vince. Come mai da quando non c'è Bersani vince sempre? No, no, il PD vince anche grazie al lavoro fatto da Pierluigi Bersani, devo dire, ma vince soprattutto quando sceglie i candidati giusti e bisogna ripartire dai territori e dai sindaci. Però scusi un attimo, qualcuno dice, diceva fino a poco tempo fa, quando ha vinto la Serracchiani, si vince nonostante il Partito Democratico, Lei non sono d'accordo su questa affermazione, non sono d'accordo, anche se devo dire che nel corso di quelle giornate terribili vissute e la cattiva figura che il partito ha fatto nel corso dell'elezione del Presidente della Repubblica non sono stati certo aiutati i candidati alle varie cariche, però se si vince è anche grazie ai militanti, grazie ad un partito che è comunque presente, grazie ai sindaci, agli amministratori locali, per cui però adesso vince grazie al lavoro fatto da Bersani, mi sembra un po' esagerato. Siamo no, Bersani è stato segretario per 4 anni del Partito Democratico. È evidente che quando si vince tutti, quando si perde, perde uno solo. Io rifiuto questa idea. Dico che Pierluigi Bersani ha fatto, siccome l'ho conosciuto e lo conosco molto bene, dico che ha fatto un ottimo lavoro e che a sbagliare forse è stato anche lui, ma è stato una serie di errori collettivi che abbiamo fatto. Scusate, ma è Letta quando dice che invece il governo delle larghe intese esce rafforzato? Rafforza dello schema delle grandi intese. Hanno ragione tutti, cioè hanno ragione quelli che dicono che vincono i candidati un po' alternativi. Hanno ragione. Che quando si vince si vince tutti, quando si perde, perde sempre uno solo. Io dico solo che hanno vinto i candidati sindaci grazie a tutti. Quello locale che sa scegliere ed esprimere attraverso i rappresentanti locali può dare il meglio di sé e dobbiamo dare e riconoscere a questi sindaci che sono stati confermati a Vicenza, per esempio noi abbiamo amministrato 5 anni, abbiamo vinto al primo turno, a Treviso dopo 20 anni di Lega abbiamo vinto sulla città di Treviso. E quello lo sappiamo, sì. E quindi Roma è la capitale, Ignazio Marino. Insomma, anche se ci sono questi cori, Parenzo sotto il Campidoglio, non proprio belli. Vabbè, ma quello fa parte del folklore. Ma le piace, onorevole Moretti, sentire chi non salta Alemanno Io ho oppure fuori fascisti dal Campidoglio, questo si può dire o no? Beh, i fascisti fuori da tutto, devo dire. Beh, dunque dire fuori fascisti dal Campidoglio ci sta, questa sera ci sta. Non so se ci siano fascisti in Campidoglio, so che Alemanno era un rappresentante del PDL e un rappresentante della destra italiana, bisogna avere rispetto degli avversari, quindi bisogna sconfiggerli come ha fatto bene Ignazio Marino con delle proposte credibili e vicine al sentire della gente, ed è evidente che questo risultato è una bocciatura per quanto riguarda l'amministrazione di Alemanno. Ma no, ma siamo Moretti, che cosa strana che mi dice? Come mai? Pensavo fosse un'altra cosa. Lo sa che con noi non si può preparare queste dichiarazioni, perché io la pungo subito quando lei si prepara queste dichiarazioni qui. Però scusi, mi deve risolvere una questione. Ma c'è una cosa buona che ha fatto Alemanno? No, ma lascia perdere Alemanno, chi se ne frega? Ormai è il passato. Ma io voglio capire una cosa, com'è finita col signor Cacciari? Perché l'ho vista combattere, devo dire, come una leonessa. L'ho vista combattere, ma lei ha combattuto come, devo dire, tanto di cappello, perché quando Cacciari parla intimorisce molto, perché dice: tu non capisci, com'è che fa, Parenzo? Ma allora la Moretti, ma la sinistra perde ovunque, non avete capito niente, da cambiare il mondo, bisogna cambiare la mentalità, questi qui sono vecchi, non capisce, Bersani beve la birra. Ma scusi Cacciari, ma la Moretti mica è vecchia. La Moretti anche, ma la Moretti è la birra, io conosco la birra. Ho capito, però insomma, ciao Moretti, è stato un gran maleducato, diciamolo tutto. No. Come no? Ma quando non si lascia parlare l'interlocutore, un po' di maleducati si è. Cioè, deve collegare la bocca al cervello, ha detto lei. Insomma, devo dire che ha trovato anche quella. Non è facile affrontare Cacciari, che c'ha sempre questa barba. Cacciari è un grande filosofo. E basta, le dice. si ferma lì. La politica, lei dice Nisba. Effettivamente tutte le scelte che ha fatto nel passato Cacciari non è che siano state azzeccatissime, no? L'ha detto lei, eh. No, no, questo glielo chiedo a lei, punto interrogativo, è vero o no? Mi sembra che sia un grande filosofo. Sia solo un grande pensatore. Beh, era salito sulla groppa di Monti a un certo punto, se lo ricorda, sì. O no? Sì, me lo ricordo. Vabbè, ma rimproveri qualcosa, signor Cacciari. Su. No, ma io gli ho già detto quello, ma poi sai, negli dibattiti televisivi in collegamento si fa anche fatica a discutere amabilmente. Quando una persona mi viene a dire che le riforme istituzionali si fanno in 20 secondi, insomma, trovo che sia quantomeno opportuno ribattere dicendo che non è così. Senta, Renzi dovrebbe fare il segretario del partito, sì o no? Renzi dovrebbe fare il segretario, decidere se stare dentro o stare fuori, nel vabbè, senso che è il momento di metterci la faccia, il cuore, la passione. E dunque si deve candidare o fare il segretario? Se ha voglia di vabbè, se ha voglia, quello lo decide lui, secondo lei. Secondo io lei. Credo che il partito abbia bisogno di un congresso aperto a più figure, vabbè, che sia basato non sui personalismi ma sui contenuti e sulle proposte. Però questa è una dichiarazione che va bene per un così per il TG1, per il TG2, va bene. Sì, allora, Renzi, l'edizione è una dichiarazione che va bene per il TG1, neanche delle 20. No, ormai TG1 no, perché diciamo Moretti prima era da TG1, adesso va bene Cooperlo, Renzi, Cibatti, Marca, vanno tutti bene. Vanno tutti bene. Per lei vanno tutti bene. Vabbè, vanno bene nel senso che bisognerà poi vedere che tipo di proposte faranno. Ma no, ma pure questo, Parenzo, mi sembra una cosa stranissima questa cosa qua, no? No, ma guardi che non è scontata, no. Cruciani, sai perché glielo dico? Perché? Perché la contrapposizione oggi si fonda esclusivamente sulle personalità. Ma è così, ma persone. Sarà sempre così. Ma no, guardi, ma come no? Non è detto. Ma Bersani ha perso perché la gente non l'ha votato, cioè perché non c'era carisma, perché non c'era carisma. Ma guarda, è una serie di ci sono tanti fattori per i quali noi abbiamo perso, non ce n'è soltanto uno e non è attribuibile soltanto a Pierluigi Bersani, è attribuibile ad una serie di elementi che sono molto cambiati, per esempio rispetto a 2 mesi fa la realtà politica oggi è cambiata, pensiamo come si sono sgonfiati i grillini, voglio dire, no? Pensiamo alla crisi della Lega, e quindi insomma sono tanti fattori, certo quello del carisma, di essere comunque una persona che in genere ha fiducia, cioè ha più Renzi, diciamo la verità, onorevole Moretti, se Renzi avesse vinto le primarie, se parliamo sempre con i se, avrebbe vinto le aperte, però cioè, avrebbe vinto in carrozza le elezioni, su, diciamo la verità, questa questo cosa vuole, non possiamo dirlo, che ne so io, secondo lei sì. Ma non lo so, ma figurati se ti dico che avrebbe vinto le elezioni, non lo so, so che sono personalità completamente diverse. Però è l'unico oggi in grado, non è l'unico oggi in grado del PD, è l'unico in grado di vincere le elezioni del PD? Credo che sia una delle figure emergenti su cui dobbiamo puntare, che si vince tutti insieme, non vince uno solo. TG2, per Parenzo, ma no, si vince insieme, non vince uno solo, vince una squadra. Questo, io ho imparato questo ad Bersani, secondo me su questo lui ha ragione. L'importante è costruirsi una squadra vincente intorno al problema di Bersani, magari che non ha saputo, come dire, no, farsi suggerire dai migliori, dalle migliori risorse, da quelli più collegati ai territori, da quelli più sensibili e empatici con la gente. Non ha capito niente. Scusi un attimo, lei invece, siccome io non capisco lei quando parla, ma lei invece capisce quando parla Barca? A me Fabrizio Barca piace molto. Piace, ma lo capisce lei il linguaggio? Il catoplay, sa che cos'è il catoplay? Basta studiare un po'. Ah, bisogna studiare un po', questo un po' mi preoccupa però. Perché il Barca è un tecnico, diciamo che non è un politico, è più un tecnico, però il suo documento va semplificato sicuramente, perché non è non c'è dubbio su questo. Abbiamo la pubblicità, torniamo. La Zanzara. Insisto, Parenzo, la dichiarazione più straordinaria di oggi viene da una deputata del PDL molto vicina ad Alemanno, si chiama Saltamartini. La signora Saltamartini ha detto che in fin dei conti non è stato un problema. No, infatti. È stato ma un voto non credo che sia un voto contro Alemanno, anzi tutt'altro, quello che io invece credo, allora. No, io credo che sia purtroppo, la cosa mi preoccupa. Per te tutto sempre facile. Si è riusciti a dire anche questo oggi, che non è un voto contro Alemanno. L'avevo perso prima, ha fatto molto bene direttorissimo a rimandarlo, dice sì. Non è stato un voto contro Alemanno, anzi, cioè quell'anzi sì. Aggrava la cosa. Ma è sempre la solita cosa, salta Martini, salta Martini. Comunque la notizia di oggi non è questa, se mi posso permettere. Quale? Anzi, la notizia di oggi che andrebbe, come dire, analizzata il dramma, la tragedia di Ercolano. Sì. E allora? Il fioraio che si è ucciso. Vabbè, ho capito. Siamo tutti in lutto, va benissimo. Cioè, allora? Benissimo. Questa è la cosa, cioè sì. La cosa che ci dovrebbe, come dire, far interrogare, far indignare. Ma perché non ti interroghi tu? Paese in cui manca il lavoro e c'è fame di lavoro, c'è fame, cioè chi si uccide per il lavoro? Questo volevo dire. In questo caso non c'entra nulla, perché è un problema più che altro di burocrazia, se poi il motivo vero è quello, perché io non ci credo mai a qualcuno che per la burocrazia, perché non ti fanno aprire non so che cosa, ti butti dalla finestra. Ucciso dalla burocrazia, diciamo perché la verità. Non riusciva a fare il suo lavoro, cioè ti rendi conto di questo dramma italiano che guarda, l'altro giorno hanno detto che la bomba contro l'italiano là l'aveva lanciata uno di 11 anni, poi si è scoperto che non era vero, per cui stiamo attenti, calmi, quando si parla di suicidi stiamo calmi ad attribuirli alla burocrazia che non funziona, al lavoro che si è perso. No, ma è la disperazione di persone. Ma che dici? Ma se dici delle frasi fatte, come al solito, dici delle frasi fatte. Come al solito, dici delle frasi fatte. Il fatto che ci sia nel paese. Vabbè, sei perfetto per Rai 3. Disperazione. Sei perfetto per Rai 3. Mi rende isterico. Siamo qui 800 24 00 24. Volevo capire da Alessandra Moretti del Partito Democratico cosa ne pensa di questa nomina last minute, nel senso non particolarmente azzeccata dal punto di vista temporale, della signora Isabella Rauti, moglie di Alemanno, nonché cognome molto noto nella destra, nella storia della destra italiana, consulente per il femminicidio da parte di Alfano. Che ne pensa di questa nomina? Cosa vuole? Non penso sia non sono in grado, nelle condizioni, di dare un giudizio. C'è uno strapuntino sulle scelte discrezionali che un ministro fa nella scelta. Posso dire però che so di per certo, perché ho parlato con diverse persone, che su questi temi la Rauti deve essere abbastanza ferrata. No, ma per carità, però a parte che io contesto che ci sia bisogno di un consulente speciale per il femminicidio da parte del Ministero dell'Interno, per le politiche sul femminicidio, ma lasciamo, non lo so, non so il consulente, questo è importante da capire. Probabilmente deve stampare dei dossier, deve stampare dei dossier, presentarli al ministro, vabbè, ma insomma non basta lo staff che un ministero stampare ha, dei dossier. Bisogna avere anche i consulenti sul femminicidio. Scusa, vogliamo fare? Stampare dei dossier. Ma non lo so che deve fare il consulente sul femminicidio, cioè, non chiedermelo a me. È uno dei temi su cui il Parlamento e il governo si stanno impegnando maggiormente. Si vuole accelerare l'iter legislativo per appunto approvare la legge contro le violenze sulle donne. Il ministro si sceglie i consulenti che vuole, cioè, ma queste sono le regole che gli consentono, a meno che non ci sia una direttiva, una decisione. La tempistica non è bellissima, diciamo la verità. Cioè, Alemanno perde, la moglie ottiene una nomina da parte del ministero. Andate a vedere chi è Isabella Rauti. Io non credo che. Ma perché Isabella Rauti deve essere connessa esplicitamente con il ruolo del marito? Il marito farà una cosa, Isabella Rauti ha una sua storia politica, professionale. A me scoccia quando le donne vengono sempre messe in mezzo e alle donne vengono sempre fatte fare le figure di quelle cooptate da qualcuno, da qualche altro uomo. Questa cosa qua. Ma non ho detto cooptata, io non ho detto che è cooptata, io ho detto che la moglie del sindaco è uscente. Seri come voi dovreste invece guardare alle competenze, alle esperienze maturate sul campo e difendere le donne e non discreditarle. Ma io non difendo nessuno, uomo o donna non me ne frega niente, poteva essere pure un uomo contro il femminicidio, non me ne poteva fregare meno. L'unica cosa che dico è che, primo, la tempistica non è felicissima, anche perché per evitare attacchi appunto della stampa, le ironie eccetera eccetera, e seconda cosa, non credo nella maniera più assoluta che serva un consigliere per il femminicidio al Ministero dell'Interno, non ci credo. Questa è una sua opinione, pare. Certo, che assolutamente una mia opinione, per carità. Vedremo cosa si farà, vedremo cosa ma farà. Ma cosa vuole che faccia? Produrrà le cose invece utili, utilissime, certo. A proposito di donne, amore, lei ci crede all'amore della signora Minetti per Berlusconi? Sì, sì. Ah, lei crede che fosse innamorata? Sì, innamorata persa. Lei dice, eh? Per aver fatto quello che ha fatto, uno deve essere o insano di mente o pazzo, innamorato pazzo. Cioè, in che senso? Scusi, questa cioè? È buona però. Questa non è male. Cioè, che vuol dire? Cioè, per avere fatto quello che ha fatto, cioè, lei dice... Ma si mette nelle condizioni di grande difficoltà, tant'è che viene chiesta una condanna di 7 anni, mi sembrano 7 anni, per cui deve aver compiuto dei fatti, aver avuto dei comportamenti molto gravi, tant'è che appunto il PM fa questa richiesta, per cui o uno è insano di mente o uno è follemente innamorato. Lei dice per aver fatto quello che ha fatto per Berlusconi deve essere innamorato pazzo, dice lei. Sì, ma poi l'ha dichiarato lei, perché devo mettere in dubbio la parola di in un'aula di tribunale si può dire di tutto, si può dire di tutto. No, in teoria no, nel senso che c'è un giuramento e quindi lei è mai stata così innamorata come lo è stata la Minetti? Che domande mi fate? Beh, perché no? Ma è politica, cosa c'entra? Ma l'amore e la politica sono cose molto che vanno a braccetto. Vanno sempre a lei sa che ci sono molti. Nelle questioni professionali tengo a separare i due piani. Ma scusi, in Parlamento ci sono un sacco di coppie che si formano nuove tra deputati. Potrebbe essere un'idea, lei si mette con qualcuno del PDL. No, guardi, non c'è pericolo. Non c'è pericolo. È innamoratissimo del marito. È impossibile, dice lei, che si mette con qualcuno del PDL. Perché, scusi? Ma non è possibile, io non dico che è impossibile niente nella vita, però le assicuro che tendo a separare il piano personale da quello professionale. Vabbè, capito, però può succedere che uno incontra una persona anche in Parlamento. Sì, può succedere, voglio dire, può succedere tutto nella vita. Nella vita tutto può succedere. Io invece sono abbastanza ferrea. A proposito, Parenzo, sai che hanno eletto un sindaco giù in Puglia? Lo sai chi è? Cosimo Mele, te lo ricordi, signor Mele? Cosimo Mele, infatti, volevo dire questo. Cosimo Mele, questa è la notizia del giorno. Altro ma lui ha dichiarato oggi: questo è il mio riscatto. Cioè, il signor Mele, non è che tutti alla radio devono sapere per forza, ricordare chi è. Ha ancora una vicenda in corso per la storia della cocaina in un albergo con una prostituta. Come si chiamava, signorina? Sì, come no? Aspetta, come si chiamava? No, Pocahontas. Ah, no, era soprannominata Pocahontas. Sì. E come era... mai? Non mi ricordo, per le tette forse, non mi ricordo. No, per ma parlate dell'uomo e non parlate della donna, che è l'uomo che è indagato, che è stato condannato. No, condannato sulle donne. No, le donne. Lei non c'entra niente, poveraccio. Appunto, signori. Lei faceva il suo lavoro, è lui che forse ha qualche problema, no? Sì, può darsi, però è stato eletto sindaco, ha capito, nonostante questo passato, eccetera, è stato eletto sindaco. Perché si separa sempre l'aspetto, per gli uomini si separa sempre l'aspetto personale da quello politico. Per le donne invece si cerca di far sempre una questione, diciamo così, affine. Bah. Grazie, a presto. Grazie, a presto. Grazie. Saluti. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Allora, io voglio dire una cosa, che l'esercito di Silvio promette battaglia, promette battaglia contro Alfano, contro i vertici del PDL per questa disfatta, lo sai, sì? L'esercito di Silvio, sì, vogliono assediare la casa di Berlusconi, non lo so, Volpe Pasini, ma che volete fare? Eccolo qua, mamma mia, che volete fare, Parenzo, pensaci tu. Gli altri in una giornata, no, dico solo questo perché mi sono già voglio sentire la voce. Gli altri in una giornata come questa intervistano Galli della Loggia, intervistano Ma chi lo intervista? Ma quando Barbara mai? Spinelli. Vabbè, ma vuoi dire tu qualcosa? Vabbè, Volpe Pasini. Mauro, sì. E noi diamo la parola al signor Volpe Pasini per spiegarci dell'esercito di Silvio. No. Pasini, che volete fare innanzitutto? Che volete fare? No, vedi, il dramma è questo, che oggi io ho ascoltato il commento a questa disfatta elettorale, che è tragica, i commenti l'hanno fatti Cicchitto, Gasparri, sì. Cicchitto ha detto una cosa meravigliosa, che senza Berlusconi non si vince, che forse bisogna radicare un po' il partito, che bisogna forse fare le primarie, una roba mi veniva il vomito, cioè mi sono dovuto fermare, scendere dalla macchina, come dice un mio amico, fare un giro attorno alla macchina, perché non ce la facevo più, ho preso a calci la mia macchina, non è possibile. Tu hai preso a calci la macchina dopo aver sentito Cicchitto alla radio? Sì, esatto, ho preso a calci la mia macchina, ho detto non è possibile che tutto, dopo tutto quello che è successo, il cambiamento, il rinnovamento, eccetera, ma quale rinnovamento? Ma dov'è sto rinnovamento? Appunto, da nessuna parte, devo ascoltarmi, Cicchitto che commenta con delle cose di una banalità che neanche un bambino di un mese è in grado di dire, come se fosse un'educata, come se fosse arrivato ieri. Non c'è Berlusconi, allora si perde. Bisogna radicare. Il partito evidentemente non riesce ad avere appile alle amministrative. Vabbè. Che dicevano nel 96. esplicita. Ma voi con l'esercito di Silvio cosa volete fare di fronte? Io, io ho fatto mea culpa. Devo dire la verità, ho fatto mea culpa. A calci nel culo, a sberle, non bisogna prendere quelli di sinistra, perché poverini sono anche, voglio dire... Sì, durante le manifestazioni, sì. No, ma bisogna prendere a calci nel culo i nostri dirigenti. Cioè, allora, l'esercito di Silvio cambia ragion d'essere. Sì, assolutamente. La rivoluzione va fatta all'interno. Bisogna cambiarli tutti. Non c'è più possibilità di ascoltarli. Ma lo sa Berlusconi? Berlusconi lo sa o no? Noi siamo gli elettori, sai? Noi siamo quelli che sulla strada, poi per strada subiamo l'inedia, subiamo che sei sulla strada è sicuro. Subiamo sta gente, capisci? No, ma non è sulla strada è sicuro. Mentre il centro-sinistra ha, con tutti i difetti che potrà avere, ha centinaia di persone anche nuove in Parlamento, poi Renzi, questi, quell'altro, cioè gente di 40 anni. Okay. Noi continuiamo ad avere... Vabbè, la notizia è questa. L'esercito di Silvio cambia la sua ragion d'essere... la sua missione invece di picchiare quelli che rompono i coglioni alle manifestazioni contro Berlusconi quattro calci del culo ai nostri dirigenti, cambiarli tutti e che fate? Manifestazioni sotto casa di Cicchitto, che fate? Adesso vedremo, ma è un mea culpa personale mio, ho assolutamente sbagliato. Parenzo, di qualcosa, dai. No, Parenzo, su questo mi devi dare ragione, perché almeno su questo devi essere d'accordo con me. Ma no, io voglio dire solo una cosa, che Pasini tutte le cose che poi ha fatto si sono rivelate un boomerang pazzesco. Ha provato a mettere sotto scacco la classe dirigente del PDL, non ci è riuscito. Vabbè, ma l'ho capito, ma combatto da solo contro tutti. L'assedio ai dirigenti del PDL quando questi qui, voglio dire, sostengono un governo che tu manco volevi, cioè la linea Pasini è stata sconfitta. Ma la mia linea, certo, ma sono orgogliosamente sconfitto. Ma Berlusconi stesso però che dicevi essere con te. Come? Cosa hai detto? È stata sconfitta da Berlusconi stesso che tu dicevi che stava dicevi con te. Dicevi che Berlusconi era con te. No, non ho mai detto queste cose, queste te le inventi tu. Non ti conosce neanche. Io la mia linea. Se va da Berlusconi che succede? Parenzo, racconta. Se lui bus va lì davanti, no? Sì. Va lì, va ad Arcore e dice salve. Chi è? Dice sono Diego Volpe Pasini. Come dice, scusi? Sono Volpe Pasini, quello dell'esercito di Silvio. Almeno io l'indirizzo lo conosco. Vabbè, gli aprono dire, a malapena essere... Aspetta, cancello, Volpe, fai raccontare, sì. Gli aprono a malapena il cancello, supera il primo blocco, ribussa. Sì. Chi è? Sono Diego Volpe Pasini, ma che vuole di grazia? Perché comunque Arcore è il grosso di grazia. Ma non c'è il primo blocco, il secondo, non c'è un primo cancello e un secondo, ce n'è uno solo di cancello. Il primo blocco non c'è il cancello, vai a vedere. Pubblicità, torniamo subito, pubblicità. La Zanzara. Vabbè, Volpe Pasini, dai, su, basta con questo esercito di Silvio, volete fare le manifestazioni davanti ai dirigenti? Simone Furlan è a Piazza Pulita. Che va a fare a Piazza Pulita? A parlare. Dirà questo, cosa dirà? Che volete fare le manifestazioni sotto casa dei dirigenti? Dirà quello che pensa. Comunque la sostanza è che abbiamo perso delle elezioni incredibili. Alemanno lo sapevano i sassi che avrebbe perso qui, eppure non ha fatto le primarie, non ha fatto niente per candidarsi. Gentilini dopo 20 anni, viva Dio, centrodestra, a Treviso non ha un ragazzo di 35 anni da mettere in campo. Ad Imperia una figura meschina abbia preso il 23%. A Brescia... Ma la colpa di chi è? Ma la colpa è di una struttura, di un partito che non esiste. Cioè di Alfano. Di Alfano fa il ministro degli interni, non faccia più il capo del partito. Ma come fa un ministro degli interni a fare il capo di un partito? Parenzo, parla Volpe Pasini. Parenzo. Adesso, Davide, stai zitto un istante. Ma in un paese normale... Ma stai zitto un corno, scusami, ma... Un istante, lasciami finire. In un partito normale, in un paese normale, il ministro degli interni non può essere il capo di un partito. Vabbè, ma queste sono cose che la gente non capisce. Ma in un paese normale non esiste l'esercito di Silvio, lo capisci o no? Certo, bisogna farlo apposta. Poi guarda, dopo i dirigenti tocca a Parenzo. Dove abiti, Parenzo, tu? A che fare, cioè, scusa? Che vuoi fare? Andare sotto casa a vedere come sta, a coccolarlo un po'. Fermi tutti. Ciao, Volpe Pasini, ciao, fermi tutti. No. Beh. Era tanto che non si è un grande musica. Ritorno, è un grande ritorno, sì. E noi siamo molto contenti, abbiamo visto ieri Parenzo, non so, aspetta che ancora il collegamento deve essere pronto, Sai che mi emoziono però, perché? No, ma adesso questione di istanti, questione proprio di secondi. L'ho visto intervistato da Scalfari. Sì, esatto. ma dov'è a mangiare? Aspetta, aspetta, sta arrivando, sta arrivando. Ma tu l'hai sentita l'intervista, l'hai vista l'intervista a Scalfari o no? Come no, su Repubblica TV, certo. Beh, intervistato da Dio, no? Napolitano intervistato da Dio. Dal fondatore. Sì, sai che si sente Dio, no? No, ma era molto bello il tono che usava. Secondo me... ecco, ecco, presidente! Buonasera, Cruciani. Oh, grazie, presidente, come sta? Come sta? Ah, oggi è una giornata, diciamo, di giubilo. Ovviamente la mia soddisfazione e il mio affettuoso saluto innanzitutto al neosindaco di Barletta, Pasquale Cascella. Oh, ha vinto, sì, è vero, un'altra notizia è questa. Dalla Puglia non c'è solamente presidente signor Cosimo Mele, ma c'è anche il suo ex portavoce che ha vinto, che ha vinto a Barletta nettamente, direi, no, presidente? Duca ha fatto bene a lasciare, insomma, l'incarico. Ma devo dire che ha svolto un lavoro istituzionalmente pregevole, ha dato un fattivo contributo al Quirinale, alla presidenza. Va bene, certo. Ma ora il suo sforzo per la città di Barletta sarà sicuramente prodigo di grandi novità e di grandi riforme. Senta, presidente, devo dire la verità, qualcuno nel Movimento 5 Stelle, non solo nel Movimento 5 Stelle, l'ha attaccata perché lei avrebbe detto che questo governo è a termine. Poi lei ha precisato, io non ho mai detto governo a termine, eccetera, eccetera. Vogliamo risolvere una volta per tutte questo arcano? Una volta per tutte devo dire che il Movimento 5 Stelle può dire quello che vuole, ma la parola della Presidenza della Repubblica, ovvero la mia, è una sola. Sì. Questo governo è nato per portare al Paese uno scatto di orgoglio e portato per compiere passi certi sulla via delle riforme, e il risultato elettorale delle amministrative devo dire che potrebbe dare ai grillini più di un motivo per tacere e pochi motivi per parlare. Addirittura, lei dice perché hanno a parte due comuni, poi in realtà non è stato un grande risultato. O no? È un, diciamo che non c'è stato il boom, il famoso boom, si ricorda? Ma non c'è stato neanche un trick track, come si direbbe, diciamo, a Napoli. Devo dire che il trick e track, neanche un trick e track, non solo un boom. Eh sì, non c'è dubbio. La vittoria oggi è una vittoria politicamente da assegnare a un centro-sinistra che ha trovato le ragioni del consenso, nonostante Bersani. Ah, nonostante, lei dice? Beh, abbiamo sentito poc'anzi la deputata, diciamo così, arrampicarsi maldestramente sui vetri. Beh, perché, presidente, insomma, il centro-sinistra vive una nuova vita di questo giovane sindaco di Firenze che deve finalmente portare un contributo di novità. Ah, anche lei renziano, presidente? Renziano forse troppo, come dicevo giusto ieri a questo giovane giornalista di Repubblica che mi ha intervistato. Cioè chi? Scalfari. Ah, Era una celia fra ottuagenari. Ah, ecco, capito. Ecco, com'è stato? Scalfari mi è sembrato perfettamente a suo agio, no? Il fondatore, o sbaglio? Ma devo dire che il dottor Scalfari non solo gode di ottima salute, ma è ancora lucidissimo e vibrante nella sua capacità, diciamo così, di dare adito ai ricordi, di poter ricostruire un percorso politico che, come dicevo, nasceva da Padova e da lì andava questo caro Apparenzo, da Padova e andava poi a portarmi, insomma, responsabilità che mi hanno dato la possibilità di giungere fino qui. Devo dire, con Scalfari ci siamo anche appunto divertiti in quanto coetanei, anche se guardandolo mi sento un ragazzino. Ah, beh, questo non è bello però, Beh, lei dice che è un po' vecchiotto. Va bene, presidente. Non c'è dubbio. Volevo salutarla, incontrerà il nuovo sindaco di Roma, lo incontrerà, il signor Marino, lo conosce, no? Ma con piacere, attendo di visitare Il nuovo sindaco, attendo ovviamente di recarmi a Barletta a felicitarmi con quello è più importante, no? Cascella, e per adesso devo dire che abbiamo più di un motivo questa sera per concederci qualcosina in più a cena. Appunto, che si mangia? Abbiamo ricevuto freschissimi da Ponza 4 polpi presi proprio di scoglio. Beh, quindi stanno sobbollendo allegramente. Beh, diciamo che sobbollendo. Sì, sì, allegramente però. Sobbollendo allegramente, quindi sarà insalata di polipo e patata con l'olio quello buono. Presidente, buona serata, grazie. Ma a voi, viva l'Italia, saluti, viva la Repubblica. Mauro da Roma, buonasera Mauro. Salve, buonasera Cruciani. Dica. Senta, io volevo dire una cosa, vi rubo poco tempo. Sì. Io penso che c'è stata una grande sessione di votazione, perché forse qui questi nostri politici, loro ci vogliono far credere che siamo in democrazia, ma a me mi pare che siamo quasi in una dittatura. In che senso? Guardi, io non la vedo questa dittatura in giro, la vede solo lei. No, in che senso? Loro fanno quello che vogliono. Io penso che lo Stato dovrebbe essere il popolo e i politici dovrebbero essere i funzionari di uno Stato. Sì, ma che vuol dire? Scusi, concretamente cosa diavolo vuol dire questo ragionamento? Vuol dire che i funzionari dovrebbero fare il bene del popolo. E allora? E qui, ma qui l'unica cosa che non fanno i nostri politici. Forse sarà solo un mio pensiero. No, ma non è un pensiero, no, è una cosa così. Perché, cioè, ogni persona che vuol lavorare, che vuol fare qualcosa, c'è troppa burocrazia, sempre i bastoni in mezzo alle rote. Sì, le rote sempre. Loro, con questo concludo. Concluda, che prego, dice, sì. Che ogni popolo ha i politici che si merita, che i sbagliati forse siamo anche noi come italiani. Come lei è iniziato da un punto e è finito esattamente all'opposto. Michele da Ferrara, buonasera. Michele, dica. Buonasera Cruciani, ascolti, io avrei voluto parlare con la Moretti, ma lo dico a lei. Sì. Lei, la Moretti ha detto si vince col gruppo, si vince vabbè, con la squadra. Vabbè, stupidaggini, su, ecco, banalità. Io le volevo solo dire, la devono smettere, perché devono che si candidi lei, che si candidi Risi, che si candidi qualcuno, ma se continuiamo con la logica della squadra, quelli non vinceranno mai. E alle prossime elezioni, Grillo e Berlusconi, e lo cacciano ancora, ahimè, nei bassi fondi, devono pensare che siamo nell'era del mediati, e che dobbiamo metterci qualcuno che buchi lo schermo, che convinca le persone. La logica del gruppo è vecchia di 20 anni e ormai la devono smettere di dire queste cose. Ma poi che vuol dire? Ma non vuol dire nulla, poi non vuol dire niente. Ma si elegge quando si va a votare per il sindaco, per esempio, si elegge una persona, cioè se uno funziona. No, ma io parlavo di livello nazionale, Cruciani, mi scusi. No, ma è uguale, è la stessa logica, è la stessa logica. Se continuiamo con la storia del gruppo vince la squadra e quelle robe lì cadono ancora nella stessa storia. Loro devono metterci qualcuno che sia in grado di vincere, che sia un leader, e ahimè Bersani ha dimostrato di non essere tale. Sarà bravissimo, se avrà tutte le competenze in questo mondo, come la Bindi, come altri personaggi, però stop, ormai a livello mondiale che si leggano, che assumino qualcuno, un consulente della comunicazione, qualunque, che ci metta qualcuno che abbia lo stigma del leader, perché per essere oltre alle competenze bisogna essere anche in grado di attrarre le persone e portarsele dietro di sé. Grazie Cruciani. Pubblicità, a dopo. La Zanzara. Bene, la giornata di oggi, caro David Parenzo, mi risuona profetica. Una frase pronunciata pochi mesi fa, anzi poche settimane fa, dal sottosegretario alla funzione pubblica del PDL, la signora Micaela Biancofiore. Sai cosa disse la signora Biancofiore? Te lo ricordi? Non sugli omosessuali, eccetera, eccetera, quelle polemiche. Se non vuole che più parlare con noi. Sì, non vuole dopo più la parlare polemica con noi. Sul cane. Non vuole più parlare con noi perché dice che l'abbiamo trattata male quando ha portato il cane. Anzi, no, quando. In realtà ha detto tutto lei. Cioè, la signora Biancofiore ha detto che lei porta il cane in ufficio al ministero. E noi le abbiamo chiesto: sì, ma lo può fare anche un dipendente pubblico? Sì. Che dobbiamo fare noi? Comunque, c'è il ministero che è invaso da cane. La Biancofiore disse questo: anche una capra sarebbe eletta col PDL, tutto merito del carisma di Berlusconi. Adesso devo dire, dopo questa tragedia elettorale del PDL alle elezioni locali, a questa tornata elettorale, queste parole potrebbero risuonare profetiche. 16-0 il risultato. Io volevo sapere se era d'accordo con questa storia delle capre. Maria Grazia Cucinotta, buonasera. Buonasera. Come sta? Beh, come sta? Tutto bene, benissimo. Che devo dire? La Cucinotta, io vorrei vederla però, perché la invitiamo alla radio? Ma sei il solito, ma che te ne frega a te? Cosa no, diavolo te ne frega? Dire, è bello anche la prossima volta la... verrò lì da voi. Bene, che vuoi dire Parenzo? Cosa vuoi dire? Dimmi, che la spiega. Voglio vedere in studio. Vabbè, ma tu fai il solito le... non riesco a fare le interviste così, solo con la voce, ho bisogno del corpo a corpo radiofonico come lei. Vabbè, banalità totali, le solite cose scontate di Parenzo sulle, sulle, sulla signora Cucinotta. Insomma, adesso, non, che hai fatto? Scusa Davide, aspetta, che stai... un attimo che qui, sì, qui c'è un po' lì, aspetta, eh. Lo sai che, lo sai che lo sai che Maria Grazia Cucinotta è testimonial del Palermo Pride 2013, lo sai, sì? Come no? Questo infatti, questo le rende onore e merito. Senta, ma signora Cucinotta, ma lei è favorevole anche all'adozione degli omosessuali? Guarda, io ho vissuto per 10 anni a Los Angeles in un quartiere gay, dove la maggior parte dei miei amici comunque avevano adottato oppure avevano dei figli. Non avevano problema questi figli, sai che noi ospitiamo sempre delle persone. Secondo me, sì, guarda, i bambini non si creano tutto questo problema, sono i pregiudizi che creano poi le diversità e i problemi. Dunque un bambino, quindi, potrebbe crescere tranquillamente senza nessun problema. Metti caso che una madre muoia o un padre muoia, sì, secondo te? No, ma se un figlio ha bisogno di amore e ha bisogno di essere educato seguendo delle regole e non creandosi dei pregiudizi inutili, perché poi l'amore non si crea questi problemi. Ma con me sfonda la porta aperta. Giovanardi non la pensa così, io lo dica al signor Giovanardi, lo dica a un sacco di gente che noi ospitiamo spesso in questa trasmissione, perché siamo diventati... per questo poi ho deciso di, sono più di 10 anni, sono 13 anni quest'anno che ho fatto il primo taglio del nastro del primo Pride, sì, qui a Roma, e ho continuato tutta questa battaglia, perché poi comunque devi essere coerente. Se sei amico di, sì, un ragazzo, di una ragazza omosessuale, non puoi poi non lottare per loro, per delle cose per le quali non bisognerebbe neppure lottare, perché poi dovrebbero essere che scontate. Non esiste l'amore, e poi puntiamo il dito e facciamo la guerra a chi si ama, ma siamo ridicoli. Siete la Cucinotta, chi è la persona più omofoba d'Italia, secondo lei, di quelle che sento ogni tanto tra i politici, di queste cose pazzesche? Non lo so, perché io non ascolto gli idioti, purtroppo c'ho questo limite. Ah, proprio così. Poi, se, per esempio, il signor Giovanardi ogni tanto lo ascolta lei? Quello che dice? No, io non. Quando si parla di idiozia non le ascolto mai, perché poi comunque io sono convinta che il buon senso debba vincere sempre. Non parlare di questi soggetti fa vincere il buon senso. Parliamo solo delle cose, facciamo parlare le persone che hanno qualcosa da dire sano. Beh, però siamo Cucinotta, noi per esempio siamo specializzati nell'ospitare i mostri, quelli più incredibili, cioè quelli che ne dicono di tutti i colori, sugli omosessuali. E Parenzo per esempio è uno che li sceglie accuratamente, ma lo facciamo lo facciamo anche per tirare fuori, per scoprire la vera natura di certi personaggi. Cioè, abbiamo una galleria di mostri talmente estesa che lei farebbe ribrezzo, capito? Cioè, ma esempio, uno zoo. È uno zoo, un bello zoo di mostri, omofobi. Chiamerò Federico Zampaglione per il suo prossimo horror. Tu devi sapere, Parenzo, che la signora Cucinotta è anche produttrice. Il 20 giugno ho visto dei cartelli a Roma, esce con un film horror che si chiama Tulpa, una cosa pazzesca, Tulpa. Film Claudia horror. Con tanto sangue. Michele Placido, bravissimi. Chi metterebbe tra gli omofobi in questo film horror, signora Cucinotta? Chi vogliamo mettere? Quelli che sono omofobi, tutti. Ma lei non vuole nemmeno pronunciare ma no, i nomi. No, perché io non dimentico i nomi delle persone che... Ma ci sarà una persona che l'ha colpita ogni tanto, no? Una persona proprio tremenda che proprio lei non può sopportare quando parla di... A me dimentico anche il nome, la ignoro, per me non esiste. Le persone che puntano il dito e cominciano a creare sentenze, comunque dei disagi a delle persone che già hanno i loro problemi, per me queste persone non esistono. Ma lei dove ha votato? Siamo Cucinotta, se le pronuncia il nome di Giovanardi, lei che effetto fa? Proprio cancella. Ma guarda, Giovanardi ha fatto delle cose giuste per tutto quello che era la sicurezza stradale. Io ho partecipato anche a tutto quello che erano i messaggi sulla sicurezza stradale. L'alcol, le discoteche, e quindi delle cose giuste l'ha fatto. Poi ognuno la pensa come vuole, lui ha dei pregiudizi e purtroppo si limita la vita, perché poi comunque avere dei pregiudizi non ti fa avere una visione completa della vita, e quindi ti fa vivere male e fa vivere male anche gli altri, quindi andrebbe un attimino messo faccia a faccia con delle realtà che purtroppo alcuni per educazione, perché poi magari lui è cresciuto in una famiglia dove comunque l'hanno abituata a pensare in un determinato modo, e quindi poi a volte non si riesce ad avere una visione diversa. Però se queste persone poi alla fine piano piano si cominciano ad educare, sì, bisogna educarlo, bisogna educarli tutti, anche perché Giovanna, sono come i bambini, bisogna educare tutti. Guarda, io quando ho prodotto Viola di Mare, tanti mi hanno criticata, no? Perché dice, hai prodotto un film su due donne omosessuali. Sì. La mia rivincita è stata che quando finiva il film la gente piangeva perché non si rendeva più conto che non era più una storia omosessuale, l'amore. Una storia d'amore. Ah, sì, l'amore. A proposito di amore. Sì. A proposito di amore, ma lei ci crede a questo amore della signora Minetti per Berlusconi, quello che è stato confessato in tribunale? Io l'avrà letto anche lei, no? No, io guarda, ho deciso saggiamente da anni ormai di leggere solo le cose belle. Questa è bellissima, questa cosa qua. La Minetti, nel mondo dei bambini. La Minetti innamorata di Berlusconi è stupendo. Scusi, è una storia bellissima. La Minetti ha detto che ha avuto una storia d'amore, una relazione. Beh, è meraviglioso, no? Perché mi fate così male parlando della politica? Ma lei ha votato, signora Cucinotta? Ero in viaggio. Ma com'era in viaggio? Sono rientrata oggi pomeriggio e sinceramente poi ho passato un pomeriggio con mia figlia. Per cui sono residente qui, quindi non vota. Ma alle politiche ha votato, sì? Alle politiche ho votato. Grillo magari, no? Io non dico mai per chi voto, perché poi comunque non voglio influenzare mai nessuno. Io voglio influenzare, ecco, dicendo basta l'omofobia, questo noi lo diciamo ogni sera. La violenza sulle donne, basta. Ma uno come Renzi, le piace come personaggio? Beh, Renzi è una persona giovane, mi sembra anche un buon comunicatore, quindi sai, qui si vive di comunicazione, bisogna comunicare e bisogna anche ricominciare a parlare bene del nostro paese. Lei che è una donna di sinistra, diciamo, no? Cioè più o meno, si può dire? Io non sono né di sinistra, né apolitica. Ma però Renzi lo voterebbe lei, come se si candidasse, voterebbe Renzi o no? Se si candidasse alla guida del paese, come si dice? Alla guida del paese io li voterei soltanto dopo doverli visti fare. Nel senso, confermerei la loro candidatura solo. Parenzo, dove sei? Vedi Cruciani, la signora Cucinotta è molto prudente, perché giustamente, siccome al cinema ci vanno sia quelli di destra sia quelli di sinistra. Prudente, io per essere completamente apolitica pago per essere apolitica. Ah, apolitica, sai. Per l'ambiente sono tutti di sinistra, quindi se tu sei apolitica di conseguenza non appartieni a nessuno. Io appartengo alle persone giuste, quindi preferisco parlare di cose. Sono costruttive, perché chi ha perso la politica non ha fatto niente contro l'omofobia, non ha fatto niente per la violenza. Questa è una cosa un po' grillina. Non ha fatto niente per i bambini. Non è grillina. La politica che non fa niente. È vero. Fino adesso cosa hanno fatto? Le donne continuano a essere. Ma pure Grillo ogni tanto un po' omofobo. I gay continuano a essere picchiati, di conseguenza, fino a quando ci saranno queste ingiustizie, le coppie non sono riconosciute, quindi. Ogni tanto Grillo ha mostrato qualche tratto di omofobia, per tornare alle cose, no? Con queste sue in qualche dichiarazione, guarda, non sbaglio. Purtroppo, ripeto, l'idiozia è molto diffusa a volte. Dunque ha colpito anche Grillo, dice lei, no? Ma questo non lo so, spero di no, perché non mi sembra una persona, poi mi sembra totalmente aperto a tutto, che poi essere limitato da questo punto di vista. Ripeto, è una questione di educazione. Io non quello sempre, quello sempre, quello sempre. È una questione di educazione. Viva Gay Pride, grazie, a presto, grazie. Allora andiamo a Roma, Massimiliano, buonasera. Massimiliano, dica, vada. Senta, volevo fare un intervento sulle elezioni di Marino a Roma. Volevo far notare che tutti i miei amici che hanno votato 5 Stelle, molti che hanno votato 5 Stelle, elogiano il fatto che Alemanno vada a casa. Ecco, quindi volevo dire che nessuno se ne beve più le stronzate che sono tutti uguali i politici, nemmeno i grillini se ne bevono più. Non ho capito nulla, scusi Massimiliano. No, dico. Cioè, molti grillini a Roma esultano per Marino? Esattamente, per la vittoria di Marino. Ma guardi che la maggior parte degli elettori romani dei 5 Stelle, secondo me, hanno votato per Marino al secondo turno, quelli che sono andati a votare, ma non c'è il minimo dubbio, ma questo era chiaro sin dall'inizio. Allora però non si dicesse che sono tutti uguali, che la politica è tutta uguale, che Marino è uguale ad Alemanno, perché è una cosa che nemmeno gli elettori 5 Stelle bevono più. Ma Grillo ha detto una cosa del genere, che Marino è uguale ad Alemanno qualche volta, l'ha detto? Ma tutta la campagna elettorale, tutto il loro marketing politico. Sì, il candidato è vero, ha detto Marino uguale ad Alemanno, sì, poi in realtà ha detto se dovessero andare a ballottaggio bisogna... Cioè, non ha detto proprio che erano uguali, No, però lasciavano libertà di coscienza, come però. Vabbè, come ma quello, sa. cioè, tanto più o meno sapevano che gli elettori avrebbero votato Marino, per cui perché, cioè, no, perché esporsi a livello, diciamo, di movimento? Tanto gli elettori dei 5 Stelle cosa vuole che abbiamo votato? Alemanno, secondo lei? Cioè, no, ha ragione. Un'altra cosa volevo dire, e poi vi saluto, di far intervenire Davide il Vichingo, perché l'estate si avvicina e dobbiamo tutti cuccare. Non si preoccupi, arriverà pure Davide il Vichingo, arriverà anche Davide il Vichingo. Gabriella da Firenze. No. Gabriella, buonasera. Pronto? Dica. Sì, volevo dire... La signora Moretti, una cosa sulla signora Moretti, è una noia, è veramente una noia, come è una noia il PD. Se continuano a fare la sagra delle frasi fatte, delle banalità continue, senza prendere una posizione precisa, la signora è stata mezz'ora al telefono. No, mezz'ora per fortuna no. Per fortuna no. Uguale. Quanto? 20 minuti? Un quarto d'ora? Sì, non lo so, guardi, Gabriella. Banalità. Sono d'accordo con lei, che cosa vuole che le dica io? Sono d'accordo con una cosa precisa di nessun genere, una posizione. Il PD ha vinto la battaglia dei sindaci e sono contenta, ma perde tutte le guerre. Brava, traffico. La zanzara. Oh, io non ne posso più di banalità di questa sera. Stasera ho sentito troppe banalità, troppe cazzate, troppi discorsi inutili, troppe parole al vento, troppe persone inutili, vorrei dire inutili, sì, inutili, perché quando vengono a fare il loro sermoncino, mi rompo i coglioni in maniera terribile. Mi rompo i coglioni. Allora, è il momento di Vittorio Sgarbi, che finalmente, cioè, così finalmente c'è qualcosa di originale qui. Vittorio! Eccolo, sono qua. Eccoci qui. Allora, che dire su questo risultato del PDL innanzitutto? Che era inevitabile, no? Perché avendo scelto soltanto degli incapaci, come hanno fatto ogni volta, soltanto l'idea di candidare di nuovo Alemanno, dopo che Alemanno aveva chiesto le primarie, voleva stare con Monti, aveva fatto l'assemblea contro Berlusconi, vuol dire che o Berlusconi è distratto, o sta sulla luna, o non gliene frega niente di vincere in una città o in un'altra. Lì il candidato ideale c'era, con una lista civica, potevano indicare Marchini e se la giocava con Marino. Sì. Ma l'idea di candidare per forza Alemanno non si capisce in che cosa corrispondente a nulla che abbia a che fare con il mondo di Berlusconi, se non per essere stato un fascista che poi tra l'altro ha fatto di tutto per rinnegare il suo passato. Insomma, non lo so, una cosa. Ma che ha fatto Alemanno, per esempio, per la cultura a Roma? Tu che sei troppo a te. Ha fatto soltanto delle stupidaggini, si è fatto incartare da Croppi, che era uno di destra, che aveva compreso della sinistra, ha lodato l'inverosimile Croppi, la stessa Arapacis, che io avevo invece con Alemanno indicato come un orrore. E quindi è tutta una contraddizione, gente senza. A Roma Alemanno è una cosa di una tale volgarità, l'idea di averlo avuto come sindaco. Dici? L'idea poi di riproporlo. Ma adesso lo dici? No, l'ha sempre detto. No, ma che cazzo dici, Parenzo, imbecille? Ma sempre lo dico, stupido! Adesso lo dici! Adesso l'ho sempre detto, l'ho sempre attaccato da quando è stato indicato. Subito la Rapaci, se non ti ricordi, Parenzo, tutta la parola vecchia, uomo ovvio, uomo banale e stupido, quello è lui. Vado a vedere quello che dice. Ma hai visto che Isabella Rauti è stata messa come consulente al femminicidio? No, a un certo punto con Parenzo, quando dovranno liquidare qualcosa, lo metteranno a fare anche lui qualche posto per raccomandato, protetto, per la cosa che gli tocca. Ma scusa, Isabella, la cosa curiosa è che Berlusconi, secondo Sgarbi, sbaglia sempre dopo quando perde. Perché no, prima invece come... quanto è vero che io non ho mai appoggiato Alemanno dopo l'inizio della sua attività. Questa volta ho appoggiato Marchini, quindi non so di cosa stai parlando. Ma lui non sa, lui Marchini. L'unica cosa in cui non sbaglia è stare con delle ragazze. E sull'attività di Berlusconi a letto sarà sempre per me una dimostrazione di follia della magistratura. Quindi basta, l'unica cosa su cui lo difendo, politicamente, che l'ha mai difeso, mi ha cacciato la Moratti, mi ha cacciato lui, che cazzo dici? A te ti devono cacciare a pedate, ignorante e capra che non sei altro. Scusami Vittorio, ma Isabella Rauti messa all'ufficio di Alfano per il femminicidio. Ecco, cosa... A parte che il femminicidio è un'altra cosa che non c'è, l'omicidio, non si capisce perché il femminicidio. Allora, quando viene ucciso un omosessuale, che cos'è? L'uomo omicidio, che cos'è? Cioè non capisco, l'omicidio è grave sempre. Il femminicidio è un'invenzione di menti baccate, giusto, vanno bene per Parenzo, per cui se una donna la uccide una donna è femminicidio?